Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Proprio il Porto, che non può trovare il Leicester City, che lo ha superato nel girone 1-0 in Inghilterra, poi 5-0 finale del Porto è servito per guadagnare il secondo posto e trova la Juventus come in finale di Coppa delle Coppe a Basilea nei primi anni 80. Viene assegnata la prima delle grandi coppe europee per squadre di club, la Coppa delle Coppe. Juventus e Porto hanno cambiato questa sera la loro maglia tradizionale. I portoghesi giocano in un completo azzurro, gli italiani in maglia gialla con pantaloncini blu. Real Madrid. Ora il Real Madrid. Ulixed, Barcelona, Atletico de Madrid e Borussia Dortmund. Napoli che questa sera gioca in casa alla presenza di un pubblico impressionante, incasso superiore ai 4 miliardi, è un ambiente davvero straordinario quello che c'è qui al San Paolo, un'intera città accompagna con la sua speranza e con il suo tifo la difficilissima impresa del Napoli che tenta di ribaltare il risultato di 0-2 patito nella gara d'andata due settimane fa al Santiago Bernabeu. Poi non ci riuscì quel Napoli nell'87-88. Abbiamo sentito anche una suggestione della finale di Coppa delle Coppe vinta dalla Juventus 2-1 con il Porto, roba del 1984. Certo, Ruud Gullit non è stato tenero con il Napoli con quelle palline. Io ricordo un lontano Milan-Napoli 4-0 con doppietta di Gullit nel secondo tempo. Oggi forse ha fatto ancora più male ai tifosi azzurri. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Poteva andare meglio per il Napoli. Porto-Juventus, sì. Real Madrid-Napoli, Siviglia-Leicester, Paris Saint-Germain-Barcellona-Benfica, Borussia, Dortmund-Arsenal-Bayern-Monaco, Monaco, Manchester City e poi non è andata bene nemmeno a Roma e Fiorentina in Europa League, perché la Roma becca il Villarreal e la Fiorentina il Borussia Mönchengladbach. Boris Sollazzo, sei distrutto? No, felicissimo, devo dire. Felicissimo, come una Pasqua. In periodo di Natale. Il 15 febbraio al Santiago Bernabeu, insomma, io ero. Ricordavo a degli amici che presi una macchina per andare da San Sebastian, dove ero per un festival, a Lisbona per vedere il Benfica-Napoli, direi in Europa League. Adesso prenderò un aereo per andare al Santiago Bernabeu. Credo che questo viaggio sia stato molto molto bello. In Champions si va per giocare con le grandi squadre, quindi va benissimo il Real, insomma, se non l'avessimo incontrato agli ottavi l'avremmo incontrato ai quarti. Le squadre piccole le lasciamo alla Juventus. Devo dire la verità che Giorgio De Luca, il nostro autore, se l'è tirato addosso, perché quando è uscito il bigliettino Real Madrid ha cominciato no, non c'è una chance, no, adesso vedrai, lo becchiamo. Ma bam, quello era ovvio, è da Napoli. Cioè, nel senso che non avevo dubbi che una volta che passavamo come primi, secondo sarebbe arrivato il Real Madrid e l'avremmo preso noi, ma va bene così, cioè è una bellissima partita, è una bellissima favola. Sarri non so quanti anni fa allenava il Sorrento e adesso andrà al Santiago Bernabeu. Certo. Va benissimo così, insomma, erano tutte forti. Febbraio, 15 febbraio andata, 7 marzo il ritorno, la Juventus invece giocherà il 12 di febbraio e il 14 di marzo. Massimo Zampini invece un po' più sollevato di Boris Sollazzo. Sì, ma a parte Boris è giustamente anche contento, che sono sempre belle partite. Io sono sollevato, avrei evitato volentieri ovviamente Real, Bayern e anche City, io ci metto anche City praticamente allo stesso livello. Le altre mi erano sostanzialmente indifferenti, poi ci ho detto, la soddisfazione va espressa, non c'è nessuna esultanza, perché poi lo sappiamo benissimo, è inutile che lo dica, tu vai in Champions a Porto con una squadra che fa spessissimo i quarti, gli ottavi, eccetera, eccetera, non c'è nulla di facile, quindi insomma basta sapere che è andata bene ma che sarà molto complicato. Sì, nulla di facile, però insomma se avessi potuto scegliere ieri sul porto avresti messo il circoletto rosso, insomma. Certo, questo non lo neghiamo, questa. Pardo, tu come la vedi? Ma io la vedo sollazzianamente, proprio un sollazzo andare a giocare al Bernabeu, questo non ci sono grandi dubbi. Poi è ovvio che il Napoli potesse essere più fortunato, e io penso sia una partita, premesso che è impossibile fare previsioni da qui a 60 giorni o addirittura nel caso della partita di ritorno a 80 giorni, io penso sia una partita giocabile. Non penso che sia, il Real è una squadra... No, però Pier, no, non va bene, tu devi dire che perdiamo, no. Prendiamo pure la ancora, giornata. Cominciamo adesso, tanto presto. Io ti voglio bene, però tu forse ti sei perso la schedina l'altro giorno, ti ho detto che Napoli avrebbe vinto a Cagliari, mi pare. Va bene. Io quella volta ti ho fatto quel regalo lì, per dirti. Tra l'altro approfitto per dire che dopo Inter-Genoa il parziale della schedina è 7 su 8. Sì, i conti li facciamo domani. Facciamo a 7 su 8, ragazzi. C'è il notaio, svizzero napoletano che sta tenendo. Io vorrei dire questa roba qua. Siamo a 7 su 8. Però sono disponibile per consulenze gratuite. Fa presente che sul sorteggio non è imbroccata mezza. Questo è scientifico, mica c'è la competenza. Detto questo, poi sei sicuro? Vabbè, comunque, no, io quindi ti dico: è impossibile fare previsioni. Secondo me è una partita chiaramente difficile, chiaramente con Real favorito, ma è una partita giocabile perché Real è una squadra che dal punto di vista difensivo concede sempre qualcosa. Il Napoli, per esempio, il Napoli in questo momento, il Napoli che stiamo vedendo nelle ultime 3-4 partite. Oggi secondo me, ecco, diciamo anche così, il Real Madrid non è andata benissimo, vuoi dire questo? Oggi Real Madrid-Napoli, se si giocasse domani sera 20:45, secondo me sarebbe una partita giocabile. Poi tra due ricordiamo l'anno scorso che una Roma non proprio in formissima, se avesse avuto almeno uno dei due rigori che non avevano dato e fosse stata un po' più fortunata, probabilmente perlomeno all'andata sarebbe stata. L'anno scorso ha avuto con Dzeko, era il Dzeko un po' diverso da quello di oggi, ha avuto due occasioni clamorose e complessivamente ha avuto quattro occasioni incredibili. L'anno scorso al ritorno aveva già perso l'andata, quindi probabilmente non sarebbe comunque bastato, ma fra andata e ritorno avrà avuto 7-8 occasioni contro Real Madrid, quindi ci vuole la famosa dichiarazione di Spalletti a fine partita, nella quale si arrabbiò moltissimo con l'ambiente, dicendo non ce ne frega niente dei complimenti, non siamo usciti a testa alta, conta solo il risultato, 4-0 per loro fra andata e ritorno, ed era vero, però la Roma aveva avuto 7-8 occasioni importanti, quindi il Real ha sempre concesso, non è una squadra perfetta, poi Ricci ce ne parla quasi tutti i giorni, bisognerà capire come ci arriverà a febbraio. Ecco, quello che ad oggi io vedo come il principale discrimine, la principale distanza fra le due squadre sta secondo me nella diversa abitudine a giocare questo tipo di partite, perché dal punto di vista tecnico secondo me Napoli è una squadra che gioca molto bene a pallone e può dar fastidio al Real Madrid. Io ringrazio Boris Solazzo, mentre chiedo a Massimo Zampini, prima di salutarlo, un commento dopo il derby. Ti ha impressionato di più? Poi ne parliamo con calma anche con gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Ti ha impressionato di più Higuain, che ha fatto quei gol da grandissimo attaccante, o il rientro di Dybala con quel che ha fatto in quei pochi minuti? Diciamo Higuain, perché ieri è stato veramente incredibile, secondo me la decide veramente lui, è uno di quei casi in cui la decide proprio il centravanti che stoppa un pallone ai 16 metri, la passa in porta e quindi l'ha veramente decisa. Quando si dice 90 milioni poi sono anche questi, ricordiamo che lui ha già deciso la partita con la Fiorentina, la partita con Napoli, anche se non segna per qualche partita, è così. In generale a me la Juve è piaciuta, ha sofferto, il Torino è una squadra molto forte e ha reagito bene a una settimana complicata in cui in tanti hanno parlato un po' troppo, secondo me, da Baldissoni a anche Torino ha fatto una conferenza un po' troppo allegra, pittoresca, quindi noi reagiamo così, per fortuna, per ora. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi, ciao, un abbraccio, ciao. Traffico, torniamo tutti convocati. Convocati. Quadrado, palla buona per Maggio che fa per Higuain, fino in fondo Higuain, il pareggio della Juve al minuto 28, la gioia di Higuain, undicesimo gol stagionale. Higuaín, 2-1 Juve, ci pensa lui col talento del grande attaccante, difende straordinariamente il pallone e trova il gol che cela Siniša Mihajlović. Io penso che fino all'83esimo è stata una partita giocata a pari, viso aperto ma equilibrata, dove forse anche noi meritavamo qualcosina in più, visto che nel secondo tempo abbiamo avuto quel tiro di Ljajić uscito da poco, quel tiro di Benassi salvato sulla riga, quella ripartenza 3 contro 2 dove Baselli ha fatto un passaggio un po' corto. La squadra oggi ha fatto anche una buona partita, direi siamo stati imprecisi dentro l'area negli ultimi passaggi, abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, bisogna migliorare, siamo anche in una buona condizione fisica, stiamo crescendo, stanno rientrando tutti e questo è un buon segnale. Il racconto dei gol nelle parole di Pierluigi Pardo che ieri lo ha commentato e c'è Massimo Mauro che saluto e ringrazio. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno, ciao ragazzi. Guardando la partita, ieri a un certo punto verso il 70esimo ho detto qui in redazione, sta diventando la partita della Juventus, equilibrio e trincea. E umiltà, ce lo metti anche umiltà. E fisicità e forza mentale. È la qualità migliore di un gruppo che vince, no? Quello di non sentirsi padroni della partita, ma rispettare le situazioni della partita, e hanno avuto grande rispetto per il Toro. E questo secondo me, anche dalla panchina c'è stato grande rispetto per il Toro, e questo secondo me ha portato poi ai gol, che è chiaro che se tu fai delle sostituzioni e metti in campo Dybala e Pjanic, cioè, c'è più possibilità che o Higuaín o ieri ti sfruttino le loro caratteristiche e ti facciano gol. Anche se il Toro davvero poteva, se fosse finita in parità non avrebbero fatto no tutto. assolutamente. Però hai ragione, sembrava la partita che da un momento all'altro La Juventus si prende e si porta via. Questa è stata l'impressione dalla televisione. Non so se dal campo Pardo ne ha avuto una diversa. Posso fare complimenti a Pier per il gol? Sì. Non li ha fatti lui. Però è bello, io non lo sento ormai da tanto tempo, purtroppo, però sentire il commento dei suoi gol mi piace. Grazie mille. Sì, non l'ho fatto io il gol, l'ha fatto Higuaín, che è una delle differenze fra Juve e Torino. In realtà forse è uno di quei casi in cui è quasi un'eccezione, perché Belotti ha giocato una partita straordinaria. Però è chiaro che oltre a tutto quello che avete detto voi, che è verissimo, la mentalità, l'abitudine, la forza mentale e l'umiltà, come sottolinea Massimo, che è l'umiltà anche dello stesso Higuaín, che per lunga parte della stagione si è messo al servizio di Mandzukic. Assolutamente, e all'umiltà aggiungiamo i fuoriclasse, perché è chiaro che in una partita come quella di ieri, molto molto equilibrata, al minuto 75, quello che è, da una parte entra Dybala e dall'altra entra con tutto l'affetto Martinez, insomma fa una certa differenza. Pjanic, però anche questa alla fine è mentalità, no? Perché tu hai visto quest'anno nella gestione che Allegri ha fatto da subito, qualche volta anche con qualche polemica, pensa a quelli Higuaín in panchina Inter-Juve, tanto per fare un esempio, di come ci sia anche l'abitudine, la disciplina di un gruppo di campioni che però se una volta devono stare in panchina ci stanno tranquillamente. Pjanic sta in panchina, entra e comunque risolve nel finale, mette il punto esclamativo. Higuaín qualche panchina se l'è fatta, Dybala certamente dovrà l'infortunio, ma insomma si sta ritagliando il suo posto piano piano senza polemiche, e anche questo insomma il segno che le cose che Marchisio. Scusate un attimo, Massimo Mauro ci ha fatto anche un libro, Ho giocato con tre geni, no? Ci ha fatto anche un libro. A me onestamente ha impressionato Dybala in maniera clamorosa, perché è chiaro, non lo vediamo da un po', ha saltato 7 partite, quindi praticamente la metà di quelle giocate in questa stagione. Su quel terzo gol tu ci hai giocato, adesso non voglio fare bestemmiare in chiesa, ma l'uso del piede sinistro, bravo Massimo, bravo, perché ne sdraia 2 in un centimetro quadrato, mette una palla dentro e poi ha la freddezza non di tirare in porta, ma di darla a Pjanic. Oh, sei la testa alta durante il dribbling per vedere il movimento di Higuaín, è pazzesco, è uno che dribbla si deve preoccupare no, di dribblare dell'avversario, di tenere la palla alla vicina. Lui invece riesce in con tre avversari di tenere l'occhio alto e vedere il movimento di Higuaín e passarla col tempo giusto per non mandarlo in fuorigioco. Cioè, vabbè, ma però quello è l'istinto del grande, no? Ed è vero che l'uso di quel piede nel dribbling della caviglia che ferma la palla, la porta sulla sua sinistra per evitare il confronto con l'avversario, sì, ricorda un po' Diego, ma direi più no. Diego, lasciamolo perdere, lasciamo, perché secondo me è fuori concorso. Sì, sì, sì, horse category, come si dice lei nei Gran Premi della Montagna, al Tour de France. Assolutamente. Per chiudere, ragazzi, per chiudere con Massimo Mauro, ma voglio anche l'opinione di Pierluigi Pardo. Prima ne abbiamo accennato, Mihajlovic è stato un po' criticato, non dico crocifisso, per quei tre cambi. Qualcuno ha scritto alla De Boer, tutti e tre insieme, che hanno, magari è un caso, però forse hanno un po' distratto, slegato il Torino in quel momento della partita. No, la fortuna di Mihajlovic secondo me è stata che ha preso gol prestissimo dopo le sue sostituzioni, quindi non le puoi, no, non puoi fare una correlazione tra le sostituzioni e il gol, perché sono passati, appunto, sì, 40 sì, secondi, sì, no? Io credo che diciamo 1-1 contro la Juve, giocando bene, insomma, senza demeritare, senza soffrire tantissimo, anche se la Juve aveva avuto un po' di occasioni. E, insomma, perché si cambia non lo so, lui ha detto perché volevo vincere, però è perso, e quindi col segno di poi è chiaro, si può dire che ha commesso un errore, un'ingenuità. Grazie Massimo, alla ciao prossima. A voi. Ciao. Si è usata la parola presunzione in quei cambi di Mihajlovic, Pierluigi. Io non sono poi così d'accordo, perché il Torino si è costruito una classifica tale per cui può anche pensare di vincere, oppure anche di perdere un derby che era a un certo punto da pareggio. Sì, ma io non mi alleno al centro Seasport con Mihajlovic, quindi non mi permetto di... Se ha fatto quei cambi evidentemente perché pensava che potessero dare nuova energia alla squadra. È chiaro, e penso che lo sappia anche lui, che la mossa non ha funzionato, anche se poi è molto difficile in questo caso vedere il rapporto di causa e conseguenza, nel senso che la Juve segna praticamente un minuto dopo il cambio. Quindi da un lato si può pensare addirittura che i tre cambi avessero un po' sballottato tatticamente, ha creato un po' di confusione nel meccanismo difensivo del Torino su quell'azione del 2-1, e questo sarebbe un aggravante per Mihajlovic. Dall'altra si può anche pensare invece che questo non c'entra in niente, che semplicemente il Torino dell'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 8 minuti più recupero, quello dopo il gol del 2-1, non fosse più debole, era semplicemente fiaccato nell'orgoglio dopo, dopo la mazzata del gol di Higuaín. Ma la sostanza rimane la stessa, è stata una partita che il Torino nel secondo tempo poteva provare a vincere, ha rischiato secondo me di farlo, perché ha avuto l'occasione di andare sul 2-1. Il Torino è una squadra, è tutta una bella squadra il Torino, ti dico la verità, ieri ho visto un derby nel quale c'era tanto entusiasmo da una parte e dall'altra, con un attaccante che in questo momento è nettamente il miglior attaccante italiano, assolutamente pazzesco, ma poi anche tanti altri ragazzi di livello. Secondo me non ha fatto una partita pazzesca ieri il Toro, è una squadra che fa fatica, non ce l'ha nelle corde la gestione delle partite, sì. Si è visto benissimo ieri dopo il gol del vantaggio, una squadra un pochino più matura, ma è chiaro qui ci sono tanti giovani, una squadra un po' più matura riesce ad avere la forza di fare subito un passetto indietro, no? Dopo l'1-0 ti metti lì, aspetti e cerchi semmai di sfruttare fra l'altro quella che è una delle tue qualità, perché la capacità di andare da Belotti in contropiede il Torino ce l'ha, l'ha dimostrato, quindi però questo tipo di meccanismo non c'è stato. Infatti dopo l'1-0 è stata comunque una partita bellissima, con occasioni da una parte e dall'altra, ma c'era la sensazione che qualcosa potesse succedere, certo. Poi è chiaro che se alla fine tu concedi 4-5 palle gol alla Juve, insomma, uno come Higuaín non ti perdona, che ti perdoni, no? Un'altra volta mangio che ci ne prendi colpi di testa, sì. Quindi questo, ha vinto la Juve perché alla fine è la squadra più forte, però è stato un bel derby, poteva anche girare su quel pallone di Rijic nel secondo tempo in un paio di occasioni, sì, che ma anche su quello di Benassi, ha ragione Mihajlovic, sì. Quella è stata una grande occasione rimpallata, sì. Ragazzi, torniamo subito dopo la borsa. 800 24 00 24 è il numero verde, parleremo anche di ciò che ci aspetta stasera, parleremo anche di Napoli che ieri ha stravinto a Cagliari, a proposito parentesi Cagliari, non grande impressione. Parleremo dell'Inter che in mezzo ad un assordante silenzio della curva per il primo tempo e con quegli striscioni alla fine si è portato a casa un 2-0 che vale comunque 3 punti. tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Quale elemento vorrebbe togliere al Milan? È Montella. Perché Roma è casa sua, l'Olimpico è casa sua. Poi lui ci ritornerà da allenatore. Ma sinceramente sono tanti calciatori che avrei tolto alla Roma. Ottoman è uno di questi, De Rossi è uno di questi, Nangolan è uno di questi, Perotti è uno di questi, Manolas, ma poi se dovessi proprio scegliere una persona, toglierei Spalletti. Sì, qui più che la musica rock servirebbero i violini, sviolinate reciproche tra Spalletti e Montella. Alberto, buongiorno. Buongiorno, io volevo tornare un attimo sulla Champions per fare una riflessione di questo tipo. Allora, la Juventus secondo me non deve fare troppo la colpetta, perché come è giocato fino ad oggi, voglio dire, squadra portabile, Porto... però... cosa si poteva pensare di meglio? Ribadisco, sono contenti, però c'è da giocarla la partita, Non è che voglio dire sia una squadra probabilissima anche il Porto. Siamo tutti d'accordo, questa Juventus per vincere la Champions League non basta, ma questo lo diciamo noi dall'inizio, lo dicono gli stessi protagonisti, lo dicono i giocatori, lo dicono l'allenatore. È chiaro che questa Juventus per vincere la Champions League non basta. Per superare il Porto io credo che possa bastare, però ha ragione Pardo quando dice che da qui a quando si giocheranno queste gare molte cose sono destinate a cambiare, no Pier? Sì, sì, sicuramente. No. La previsione sugli ottavi di finale di Champions è storicamente una delle cose più difficili da fare. Ma sì, perché sono due momenti storici diversi. Certo. Mille variabili, e l'andamento delle squadre nella prima parte della Champions League spesso è diverso dall'andamento della seconda parte. Certamente il Real Madrid arriverà preparato a questa sfida. Anche un anno fa, quando affrontò la Roma ed era un Real Madrid in grande crisi con il cambio in panchina, poi si è presentato in ottime condizioni, quindi figuriamoci quest'anno che invece le cose vanno bene. Però io credo, ribadisco, che sia una partita giocabile. Per lo stesso motivo io credo che la Juve sia favorita sul Porto, credo che abbia più qualità tecnica. Ma secondo me la distanza tra Juve e Porto è maggiore della distanza che esiste tra Real Madrid e Napoli. Cioè, Real Madrid e Napoli secondo me è più equilibrata in assoluto di Juve e Porto. Questo è evidente dal punto di vista tecnico. Detto questo, Real Madrid, che ha fatto il biscottone l'altro giorno, anche se c'è chi nega, ovviamente ha portato a casa un Napoli che poteva essere, anche a Real Madrid, dicevo prima, poteva andare meglio. Fa anche abbastanza ridere che Paris Saint-Germain, che ha pareggiato con Ludogorets all'ultima, si è beccato il Barça. Carlo, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi. Una domanda molto semplice, una domanda secca. Secondo voi l'intervento di Castan su Lichtsteiner era rigore o no? L'intervento di Castan su Lichtsteiner secondo me non era rigore. Adesso andiamo a ripetere. Parliamo stasera alle 23.45 di Tiki-Taka col signor Cesari. No, francamente ti dico la verità, è un episodio che sul quale ho mandato un messaggino subito a Cesari e non mi ricordo neanche che mi ha risposto, perché secondo me c'è stato qualche minuto dopo qualcosa di clamoroso che ha cambiato le cose. Rilevanza, esattamente, sì, che come ha tolto rilevanza quell'episodio. Con il giallo a Rugani. So benissimo che sul web sono girate ricostruzioni e analogie col famoso... Juve Inter di Ronaldo e Giuliano. Per me è un'ostruzione. Sono d'accordo, un'ostruzione non punibile con rigore. Mi ha raggiunto a sorpresa Giuseppe Crucelli, uno dei massimi appassionati esistenti di sorteggi e simili. Esatto, sì. Quindi, appassionatissimo di quelle di oggi, seguito in diretta come se fosse una finale. Certo, chiaro, lo so benissimo. Che ti devo dire sull'episodio? No, Torino-Juve. Sì, Torino-Juve, fallo di sfondamento. Ha ragione Pardo, in fondo un'ostruzione non punibile. Sì, diciamo in diretta poi... ho sentito il commento, stavo seguendo, non me ne voglia Pardo, la telecronaca su Sky. Non è grave. Non è gravissimo, credo che ci sia la seconda voce fosse Adani, se non sbaglio, e lui dice è rigore tutta la vita, sì, si può dare, se non l'avesse dato non sarebbe stato uno scandalo, cioè sarebbe stato uno scandalo perché la Juventus, sicuramente, a parte invertita non sarebbe stato uno scandalo, avessero dato fuori dalla Juve avrebbero detto è una vergogna, eccetera. Sì, eccetera. Certo. Sto sorteggio come lo vedi? Che ti devo dire, i tifosi napoletani sono divisi in due, tra quelli che dicono vabbè, meglio Real Madrid così si muore al Bernabeu, così si muore in uno stadio così in un grande stadio, una grande partita. Però io capisco anche il 50% che dicono non è vero che si debba morire per forza, in fin dei conti in semifinale o ai quarti ci sono arrivate squadre che hanno meno potenziale del Napoli negli altri anni, dunque sai, la Champions League veramente dipende moltissimo dal sorteggio. Cioè il sorteggio è tutto, ne sa qualcosa la Juventus l'anno scorso, ne sa qualcosa la Juventus quest'anno, anche se non bisogna dare il Porto come spacciato, ma certo si potrebbe arrivare al termine di questa tornata di sedicesimi per Europa League e di ottavi per la Champions con solo una squadra italiana. Sì, Villarreal, Roma e Borussia, ma sono brutte partite perché di solito le italiane mica male. Sì, perché le italiane le affrontano con un altro spirito di solito. Per esempio vedo molto più abbordabile il Borussia per la Fiorentina che il Villarreal per la Roma, invece è una squadraccia, il Villarreal è una squadra ostica da affrontare. Poi bisogna vedere quanto quelle squadre puntano sulla Champions, di solito sull'Europa League, di solito le spagnole ci puntano moltissimo, le tedesche un po' meno. Sì, il cool de Siviglia non finisce mai. Ha preso Roma e Napoli si sono scambiate le avversarie, ovviamente in questo momento, se non sbaglio, degli ottavi, nel senso che l'anno scorso ci furono Napoli, Villarreal e Roma Real Madrid, finì male per tutte e due, speriamo che quest'anno finisca meglio, insomma. Comunque il culo del Siviglia. Il Siviglia arrivando secondo aveva una situazione incredibile, soprattutto perché c'erano tante spagnole arrivate prima, cioè due in partite, due sole, cioè il Barcellona e l'Atletico Madrid, dunque non poteva prendere nessuna delle due, non poteva prendere la Juventus, non poteva prendere il Napoli. Esatto, e invece il Leicester, che comunque nelle coppe non bisogna sottovalutare. Anche il City dello spagnolo Guardiola. Sì, comunque arrivando secondo, come era nella stessa situazione sostanzialmente del Real Madrid. Non poteva prenderlo perché arrivava secondo, esatto. Il Monaco. Sì, esatto. Dunque, diciamo che il Siviglia, come il Real Madrid, arrivando secondo nel girone, aveva sempre sulla carta naturalmente, più squadre morbide rispetto ad alcune prime, per esempio la Juventus o il Napoli stesso. Io voglio chiedere a Luca Valdiseri, che ringrazio, dal Corriere della Sera, cosa ne pensa dei violini tra Spalletti e Montella che abbiamo sentito? Normale. Sono due. Chi toglieresti al Milan? Toglierei Montella che tornerà a Roma da allenatore. Per onestà, ha iniziato Montella a dire no, toglierei Spalletti alla Roma. E poi Spalletti, che su queste cose è sempre molto attento, allora dice beh, allora io toglierei Montella. Sì. Però no, tutti e due gli allenatori hanno dato qualcosa in più alle loro squadre. No? Spalletti ha preso una squadra forte l'anno scorso, ma che stava andando male, che era in un momento di grande involuzione e ha una media di vittorie, due partite su tre vinte, insomma ben oltre, quasi al 70% delle vittorie, e Montella oggettivamente col Milan ha fatto per ora benissimo, un piccolo capolavoro. Però io vi dico che se stasera dovesse vincere la Roma, la classifica si comincerebbe ad assumere contorni reali. Sì, ma è decisiva, la realtà è questa. Questa partita, secondo me, non è decisiva perché siamo ancora, come tutte le partite in questo periodo, non sono mai decisive. Per cui dicono partita decisiva, sì, certo, una partita importante come tutte le partite di alta classifica. È decisiva, forse, o comunque un tantinello in più rispetto a quello che si dice se dovesse vincere il Milan. Perché dovesse vincere il Milan, che non vincerà lo scudetto, allora è diverso perché la Roma resta a meno 7. Quello un po' cambia le cose, soprattutto in funzione della partita di sabato prossimo. Cioè una Roma a meno 7, non dico che è costretta a vincere, ma insomma deve fare una partita diversa a Torino. Una Roma che resta a meno 4, non dico che può accontentarsi del pareggio a Torino, però insomma non è nemmeno un risultato che disegnerebbe, secondo quindi, me, no, Luca? Che no, certo. Anche se io parto dal presupposto che la Juve questo campionato come sempre lo può solo perdere, nel senso che secondo me è la squadra con la qualità superiore rispetto a tutte le altre, e poi ci sono variabili ovviamente, il pensiero della Champions League l'abbiamo visto anche nell'anno del triplete, che l'Inter di Mourinho a un certo punto rischiò di buttare via tutto, anche il campionato, e poi invece l'ha riacciuffato. Voglio dire, è chiaramente un pensiero che può essere pesante, un impegno che può essere pesante, quindi il campionato è lungo, come si dice con una certa banalità. Sono d'accordo con Crux che sicuramente dei tre risultati la vittoria della Roma è quello che tiene un pochino più incerto il campionato, anche se poi attenzione, perché il Milan comunque potrebbe anche decidere di fare un mercato di un certo tipo a gennaio. Il Milan comunque ha una storia di società che, se ha la possibilità concreta di lottare per qualcosa di importante, lo fa. Gennaio nessuno ha mai cambiato la squadra, per Luigi sai benissimo. La Roma l'anno scorso, sì, ma ha cambiato però Pier Sharawi. Ragazzi, mi stupirei molto se senza un giocatore fondamentale come Bonaventura e Milan facesse risultato stasera a Roma. Per me sarebbe una grande sorpresa, però per carità, poi no. Cioè, tutto allora, possibile. Traffico un attimo, poi torniamo con Pardo, Cruciani, Valdiserri. Tutti convocati. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Convocati. Dunque, Luca Valdiserri, dalle parole di Cruciani, noto che lui continua a considerare comunque la Roma parte del gioco per lo scudetto. Assolutamente secondo non me... parte del gioco. Secondo me la Juventus per me gioca un calcio orrendo, lo dico, l'ho sempre detto dall'inizio del campionato. È una squadra assolutamente battibile, come si è visto, perché ha perso tre partite. La Roma ha avuto alti e bassi, adesso c'è un po' più di continuità, tutto è nella continuità della Roma, cioè se la Roma resta a ridosso della Juventus fino ai mesi decisivi, con l'aggiunta della Juventus magari avanti in Champions, insomma il campionato è tutto da giocare. Luca? Sì, anche se proprio le due partite Torino-Roma, Torino-Juve fanno capire che la Juve ha ancora qualcosa in più, che non è necessariamente la bravura o è anche la bravura dei giocatori, ma è soprattutto un'idea di non uscire mai dalle partite, rimanerci attaccate e poi magari vincere nel finale. Torino-Roma finì 3-1 per il Torino, la Roma ha avuto parecchie occasioni da gol, le ha sbagliate e poi alla fine ha pagato. La Juve, fortuna, capacità, mettila come ti pare, poi alla fine la partita se l'è portata a casa, e finché sarà così la Juve resta la strafavorita. Però come qualità media della rosa, la Roma è l'unica vera rivale. Poteva esserlo il Napoli, che gioca veramente invece meglio di tutte, però ha avuto un passaggio a vuoto troppo lungo. Insomma, è sempre lì, è un punto con una partita da giocare. Dalla Juve il distacco comincia a essere, sì. Insomma, deve sperare per tutte. In una serie di la Roma ha lo scontro diretto fra 7 giorni e quello, insomma, se lo vinci il Napoli, quel jolly non ce l'ha più, oppure ce l'avrà solo la partita dietro. Sì. No, in compenso la Roma, io ho fatto una ricerchina su 9 statistiche, diciamo, da gol fatti, assist, cross, parate, eccetera. 9 su 10 è meglio del Milan, però sono a pari punti. Qui vuol dire che esiste qualche numero invisibile che ha reso il Milan all'altezza della Roma, almeno in classifica. E anche il fattore C, il fattore C. No, può essere, certo, ci può stare il fattore C. Ci può stare la casualità, ci può stare magari qualcosa in più che ha dato Montella, ci può stare tutto quello che ti pare. Però il dato è quello, la classifica dice che sono a pari punti. Sì, e ripeto, sì. 9 statistiche su 10 dicono che è meglio la Roma. È strano, è difficile, a volte ci sono squadre che magari fanno molti più gol, ma ne prendono anche molti di più. No, in questo caso la Roma ha fatto più gol e neanche presi di meno. Si vede che li ha distribuiti molto male. Li ha distribuiti bene. Dopo 15 giornate diciamo che il fattore fortuna è relativo, non lo considero. Io penso che il Milan abbia vinto tante partite senza brillare, in questo Milan e Juve sono abbastanza simili. Io non sono d'accordo con quello che diceva Cruciani, cioè, secondo me la Juve non gioca un calcio orrendo, la Juve gioca orrendo, la mia esagerazione, no, è chiaro che era una provocazione, no, orrendo, no? Gioca un calcio secondo me non, cioè, che per lunghi periodi della partita vince le partite, vince le partite, quello lo sappiamo, per dirti, adesso aveva questo test, doppio test con Atalanta e Torino, arrivava abbastanza a pezzi dopo la sconfitta contro il Genoa, l'Atalanta in una grandissima condizione, la Juve ha vinto poi un derby contro il Torino che in questo momento è una realtà importante del campionato, cioè Ragazzi, io fino al gol di Higuain non avrei scommesso nemmeno 20 centesimi sulla vittoria della Juventus, perché si vedeva un Torino dominare il campo in tutto e per tutto. Poi dopodiché le partite si vincono anche così, per carità. Cioè, io penso che appunto ci sia questa capacità, come diceva anche Luca, della Juve di rimanere attaccata alle partite. E poi la qualità della rosa, che è nettamente superiore a tutte le altre. È entrato Dybala, è entrato Pjanic. Poi con Dybala riparliamo anche della qualità del gioco della Juve. Assolutamente. 10 minuti di Dybala. Il problema è come gestirà Allegri Mandzukic, perché capito? Cioè, Higuain da solo gioca molto meglio che con un altro attaccante che gli porta via anche gli spazi. Dybala è perfetto, se Allegri riesce nella mandracata di far giocare insieme Pjanic, Dybala e Higuain, diventa una squadra che può anche fare un gran calcio, oltre a essere vuoi dire Pjanic, Dybala e Higuain o Mandzukic, Dybala e Higuain? No, io penso che Mandzukic... Allora, il gol di Higuain, il secondo, quello del 2-1... Sì. Se c'è Mandzukic in campo, quel gol lì non lo fa mai. Bravo, ma non peraltro, perché Mandzukic occupa quello spazio. Alto, occupa gli spazi e il Torino quantomeno deve metterci un altro difensore. E allora diventa più difficile. Higuain deve essere lasciato, era tipo il close della Lazio. Cioè, perfettamente d'accordo. Più lo lasci da solo e meglio giocherà. E poi naturalmente la Juve poteva giocarsi anche Piazza in queste partite avendo la disposizione, no? Era un giocatore adatto a... No, ma non si discute su questa sulla profondità. Avevano solo Higuain e Mandzukic, giocavano Higuain e Mandzukic. Però sì, certo. Io penso che in futuro, ahimè, per Mandzukic gli spazi si stringeranno parecchio. Questo rimane fatale, ragazzi, ha giocato titolare per praticamente 6-7 partite, dunque non si può lamentare. Anche ieri ho trovato abbastanza assurda la sua reazione, che sembra ci sia stata sul cambio. Ma perché capisce che sta dicevano noi i replicanti di Blade Runner, il tempo sta per scadere sì, anche sì. Se poi ci sono tanti impegni, sai, cioè Dybala è uno, non dico fragilino perché non si è mai infortunato gravemente, questo è stato forse il primo infortunio grave, però certo tenteranno anche di preservarlo Dybala, per cui ieri si è visto che è troppo importante, soprattutto a livello di fantasia, soprattutto a livello di profondità. Parlavamo prima con Mauro, dai, e di cambio cosa, da passo fatto... ma soprattutto Allegri ha da un lato la grande fortuna, no, di avere una rosa così profonda, dall'altro però anche la grande bravura di fare un turnover quasi scientifico, e questo non è un dettaglio. La Juve arriva in questa situazione. Un dato abbastanza nuovo della Juve di quest'anno è che c'è stata una quantità di infortuni importanti, nonostante la Juve è lì. Insomma, io non voglio frustrare il pensiero di chi pensa che il campionato sia più aperto. Il campionato è aperto, ma deve succedere qualcosa alla Juve che secondo me deve buttarlo non è via la Juventus. Ogni tanto ti viene ma ragazzi, ma perché dite buttare via? Perché la Roma fa quello che deve fare stasera, a mio parere lo farà. Questo lo penso anch'io. Perché Kučka e l'altro, come si chiama? Buonaventura sono due assenze pesanti per il Milan, e che vedo ancora un po' troppo fragilino in difesa per la potenzialità d'attacco della Roma. Poi naturalmente sono tutte parole. Poi stasera magari il Milan fa una gran partita e vince 3-0. Io lo auguro, naturalmente. Non è questo il punto. Però se la Roma fa quello che deve fare, è a 4 punti con lo scontro diretto. Con lo scontro diretto, quindi. E sei mesi ancora tutti da giocare, in cui può succedere qualsiasi cosa, tra squalifiche, diciamo casini, Coppa dei Campioni. Dai, insomma, non ha pressione, non deve addosso. Vincere lo scudetto. Ragazzi, devo chiudere l'ora, devo chiudere quest'ora. E saluto Luca Valdiserri, saluto per Luigi Pardo. Tu te ne vai, resti che fai? No, io me ne vado. Ciao Giuseppe. Ciao, a dopo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Ed eccoli i miei amici ascoltatori, 800240024, numero verde, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione, già citato Giorgio De Luca, il nostro autore. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie innanzitutto, saluti tutti. Solo una piccola chiosa regolamentare. Io credo che nel caso lì del fallo di Lichtstein, il presunto fallo, credo che tecnicamente non si possa parlare mai di ostruzione. A me avevano detto tanti anni fa che l'ostruzione è quando due giocatori sono lontani dalla palla, cioè praticamente come una specie di blocco nel basket, mai quando un giocatore ha la palla va a sbattere. In questo caso o hai il fallo di sfondamento o hai il fallo dall'altra parte. Va bene, allora, mettiamolo così: secondo me, se vogliamo parlare di connettere il calcio con il basket, è più sfondamento. Se non vogliamo usare la parola ostruzione, in ogni caso, è comunque un giocatore che non può smaterializzarsi e c'è questo tipo di contatto che secondo me non è falloso. A mio punto di, dal mio punto di vista, poi. C'è chi fa la moviola di professione, invito a rivolgersi a lor signori. Enrico, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio dello spazio. Volevo solo dire che non sono d'accordo con Cruciani per via della Juve, perché ieri sono bastati due cambi per vedere un'altra Juventus, ecco, tutto qui. Beh, ma insomma, la Juventus è chiaramente una squadra molto più profonda rispetto a tutte le altre, è una squadra, come diceva prima Massimo Mauro, anche che ha l'umiltà di saper soffrire e poi che ha un talento che è di gran lunga superiore non solo a quello del Torino. Io torno a ripetere, a me ieri ha impressionato, dopo lunghissima assenza, quello che ha fatto Dybala in quei 25 minuti che gli sono stati concessi. Cioè, secondo me ha davvero acceso la luce, al di là dei cambi di Mihajlovic, al di là dei gol di Higuain, però... non è un caso che un giocatore di questo tipo entri in campo ed accenda la lampadina come ha fatto ieri Dybala. Quel terzo gol è stato di una, cioè l'azione di Dybala in quel terzo gol è stata di una bellezza stordente, onestamente. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo farle una domanda proprio in merito anche al parallelismo col rigore che lei dice ieri che non era rigore, ma quel famoso fallo Ronaldo Giuliano, lei come lo giudica? Inter Juve, dell'Inter di Simoni, quindi a quel punto come lo giudica, visto che gli interisti ancora ad oggi reclamano quello scudetto per quel rigore non dato? Ah, mamma mia, mi sembra una storia talmente lontana. Eh no, non, è interessante, non me lo ricordo più, guardi. No, secondo me quello era rigore. Quello era rigore, questo mi è sembrato qualcosa di diverso. Poi, se vogliamo riaprire capitoli che dovrebbero essere abbondantemente prescritti, vi piace no, fare così, facciamolo no, pure. Ma sa perché? In trasmissione lei a Cruciani, che io ascolto tutte le sere ed ammiro tantissimo, perché ha detto una cosa che è meravigliosa, cioè? Che oggi essere anti-juventino è diventato un mestiere. E siccome c'è anche il signor Baldissoni che è uscito con quella frase infelice dopo la squalifica di Strootman, siamo sempre qui, non possiamo pretendere che non ci siano violenze nel calcio. Che non... No, possiamo e dobbiamo pretenderlo. Bravissimo, però possiamo e dobbiamo pretenderlo, perché non bastano le parole o anche l'atteggiamento maldestro di alcuni nostri dirigenti per giustificare il solo volo di una bottiglietta di plastica vuota. Quindi non connettiamo le due cose, perché non devono essere connesse. Saluto e ringrazio Alessandro De Carlo, editorialista della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandro. Ciao, come buongiorno. Stai? Benone, grazie. Tu? Io non c'è male, anche se torna a galla Giuliano, Ronaldo Giuliano, dopo il contatto di ieri nel derby. Io dico che dovrebbe esistere un tempo di prescrizione anche nel esatto. Calcio, ma sappiamo che perfettamente che non è così. Da esperto di calcio internazionale, questo sorteggio con il Napoli che va a picchiare contro il Real Madrid, come d'altra parte molti napoletani, compreso mio amico Giorgio De Luca, si aspettavano, e compreso, mi sembra di aver letto, De Laurentiis, che avrebbe twittato, scritto, non so cosa, Sarri me l'aveva detto, avremmo preso il Real Madrid. Certo, mi pare che qualcuno sia anche contento, e io devo dire che insomma qui ci sono almeno due punti di vista. Uno è quello, abbiamo trovato una squadra molto dura e sarà difficile andare avanti. L'altro è che comunque è un grande evento, no? Cioè per Napoli il fatto di ricevere Real Madrid con il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, insomma un po' come nei film di Fellini quando il Rex passava davanti a Rimini, andiamo a vedere cosa succede, vediamo com'è grande questa nave, insomma il Real Madrid è questo oggi, no? E quindi mi pare che in questo senso sia molto interessante, mi pare che sia una sfida interessante, anche perché il Real sta andando molto bene adesso, no? Viene da un filone di 35 partite senza sconfitte, eccetera. Sappiamo tra l'altro che il miglior acquisto che ha fatto quest'anno il Reale, Zidane, è stato quello di Antonio Pintus, che era il suo preparatore atletico alla Juve, e la differenza rispetto al Real degli anni scorsi direi poi alla fine è soprattutto questa. caso, no? Che sempre negli ultimi minuti Sergio Ramos o qualcuno riesca a ribaltare la situazione. E allora, insomma, è un Real di grandissima qualità individuale, ma molto italiano nel gioco. È abbastanza juventinesco questo Real Madrid. Esatto, se mi permetti questa parola orrenda, questo neologismo orrendo. Si somigliano abbastanza, come modo di stare in campo, forti fisicamente, molto preparati fisicamente e con il colpo in grado di risolvere partite come ha fatto ieri la Juventus, che sembrano bloccate, che sembrano ormai indirizzate. Senti, ma secondo te Paris Saint-Germain-Barcellona è un grande confronto o il Paris Saint-Germain che ieri ha rimontato il Nizza, che si mangia ancora i gomiti, vinceva 2-0, non sembra più l'invincibile, almeno in Francia, armata che era in passato? Sì, è così, e la vera è che in questo momento non c'è nessuna squadra invincibile, insomma, al di là delle 35 partite del Real, ma non c'è nessuna squadra invincibile, non c'è una squadra come un paio d'anni fa, che il Barcellona era una roba inarrivabile, il Bayern era praticamente a sua volta inarrivabile, lo stesso Real Madrid, ci sono stati momenti che... Ci sono squadre che è meglio non affrontare. In questo senso è stato meglio sia per la Juve che per il Napoli arrivare prima, perché avere a che fare con l'Atletico Madrid in confronto diretto lascia stare. Avere a che fare con il Barcellona, se Messi sta bene, lascia stare. Solo qualunque lascia stare. E insomma, qui te la giochi. Naturalmente per il Napoli sarà molto difficile. Penso che il Napoli debba fare quello che ha fatto il Borussia Dortmund nelle due partite in cui l'ha affrontato, cioè metterla moltissimo sul piano del movimento, sì, della tattica, degli inserimenti, della velocità, sì, e insomma in questo modo puoi metterlo molto in difficoltà il Real, costringerlo a inseguirti continuamente. Penso che Sarri abbia la possibilità, insomma il tempo di preparare la partita e poi nel ritorno magari avrà anche Milik a disposizione, non certo. Dimentichiamo che a gennaio c'è un mercato quale, non dimentichiamo a questo punto che il Napoli insomma, qualcosa potrà investire, sì, no? Come dicevamo prima, non dimentichiamo che mancano molti mesi, manca molto tempo, che la condizione può essere diversa, ci sono sempre le incognite, infortuni da una parte, dall'altra ancora, quindi si fanno i conti ad oggi e poi potrebbero essere variabili molto differenti rispetto a quelle attuali. Mi scusi se insisto, ma mi ha colpito una cosa che ha detto prima Massimo Mauro, e cioè nel movimento del piede sinistro, nel movimento delle caviglie, Dybala ha qualcosa di Messi. Qualcosa di Messi, qualcosa di Stivori, qualcosa di qualche piccola cosa di Maradona, ma non è un caso che il Barcellona abbia messo gli occhi addosso a Dybala e al momento... prevedendolo come quarto dell'attacco, però insomma io penso che Dybala ti può cambiare una squadra, sì. E l'abbiamo visto nel piccolo, no? In versione bonsai, cosa ha fatto ieri nel derby, e dunque sarebbe molto interessante costruire attorno a lui qualcosa di più rotondo come gioco. Mi sentivo prima anche con Cruciani parlare della qualità del gioco della Juve. Io sono d'accordo con lui, penso che con quello che la Juve ha investito, con la qualità dei giocatori che ha, la Juve potrebbe farci vedere qualcosa di più bello che sono d'accordo anche se poi la cifra di Allegri è quella di essere estremamente competitivo proprio nel momento in cui serve. Bravo, no? Ma poi insomma, prima si diceva la Juventus comunque fa molto turnover, ma fa molto turnover quasi scientifico, perché se lo può permettere in campionato, è inutile star lì, ha una profondità tale per cui può permettersi di fare turnover senza perdere la qualità che serve per vincere le partite. Tu dicevi Dybala ti può cambiare una squadra, anche Conte ti può cambiare una squadra, e io ieri ha suonato la nona ed è volato via, sta volando via in Premier League. Ne parlavo l'altro giorno, non mi aspettavo potesse farlo così in fretta. È verissimo, e tanto più che a un certo punto sembrava che la sua scommessa, quella di cambiare praticamente quasi nulla rispetto alla squadra dell'anno scorso, che era che era di Mourinho, che aveva fatto un flop spaventoso, anche la sua scommessa sua di volontà, recuperare. Anche contro la sua volontà, perché qualcos'altro dietro avrebbe voluto. No, d'accordo, però guarda, una chiave, anzi sono due le chiavi direi, una è Sliding Doors, Dio Costa vuole tornare a tutti i costi all'Atletico, perché lì non si era trovato, non si era ambientato, eccetera, e Conte temporeggia un po', perché insomma punta a portarsi qualcuno magari dall'Italia, uno tipo Higuain, no? Dice va bene, beh, vediamo, però io devo avere una punta centrale, quindi se prendiamo qualcuno vai via, se no e non prendo nessuno, tac, lui rimane. Penso che stia giocando la migliore stagione della vita, insomma, può valere anche questo discorso, può valere anche per Dzeko, che a Roma avrebbero rottamato, vale anche per il Ciolo, se il Ciolo si fosse ripreso mi dico cose che stiamo vedendo con Conte, c'è la vecchia teoria che con un grande portiere, un grande centravanti, puoi vincere qualunque cosa. Per Conte alla fine funziona. L'altro per Bacco è per David Luiz. David Luiz, che gode di pessima stampa, soprattutto in Italia, è un giocatore molto, molto importante, io trovo, perché adesso che non deve muoversi troppo, può stare lì abbastanza tranquillamente dietro, fa il difensore con grandissima qualità e in più è uno che già ti imposta l'azione da dietro. Sì. Quindi penso che questi due giocatori siano i giocatori della svolta. La terza è quella di non nascondere da dove vieni. Conte viene dall'Italia, sta giocando in modo molto intenso, però un calcio difensivo, un calcio di contropiede, e con questo, come è successo l'anno scorso a Ranieri, mi sta mettendo tutto in fila. Certo, complimenti certo, a Conte. Certo, certo. Per chiudere, Alessandro, invece, l'Inter quando la vedremo? Perché anche ieri sera abbiamo sentito, ripeto, silenzio della curva, abbiamo letto quegli striscioni, c'è aria di contestazione. Poi Brozovic ha detto che tre punti sono comunque tre punti, anche se non incanti come ha fatto l'Inter con il Genoa. Guarda, permettimi una citazione della Gazzetta, oggi abbiamo fatto un titolo, secondo me, da applausi, tutto fa brozzo. Tutto fa brozzo, sì, l'ho letto. E insomma, l'Inter è così, l'Inter non è una squadra, l'Inter è un insieme di giocatori che una volta dici buonissimi, una volta buoni, una volta alcuni fenomenali, una volta altri scarsi, ma questo è il fatto che in pochi mesi sia passato attraverso la mano di tre allenatori e continui a non essere una squadra, salvo rarissimi momenti. Penso alla partita con la Juve, nella quale diciamo soltanto il fatto di essere lì motivava già tutti, no? Certo. Ho paura che questa questione andrà avanti almeno attraverso il mercato di gennaio, perché bisogna capire se l'esigenza è quello di prendere dei giocatori che possano accontentare chi sono i manager o gli agenti FIFA che consigliano i simpatici azionisti, o se c'è un progetto tecnico per fare una squadra. Mi pare che finora abbia prevalso la prima che hai detto, la busta numero uno. Se prevale la seconda, se c'è una visione, se si capisce a che calcio si vuole giocare, può darsi che prevalga la seconda, si capisce da che parte si vuole andare. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie a te, buona giornata. Grazie Alessandro Calò, editorialista della Gazzetta dello Sport. Cesarino, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Eccovi. Dica. Senta, io volevo dire una cosa. Perché non tirate un po' fuori la Moriola in campo? Sarebbe più bella. Sarebbe più bella. Molto più bella. Almeno succederebbe io sono del Torino, adesso sto a Lucca, però. Ieri c'è quel poveraccio di Belotti che c'ha 22 anni, ma così almeno sarebbe un po' più tutelato. Ha preso tante di quelle botte che la metà basta. Sì, le ha prese le ha date, ha giocato una partita di grande carattere e orgoglio, è il miglior attaccante italiano che c'è in questo momento, Moviola in campo, un giorno arriverà e mi rassegnerò anche a quella. Io continuo a preferire il calcio così com'è, però è soltanto una questione di gusto mio personale. Carlo, buongiorno. Pronto? Pronto, dica. Sì, la ringrazio per la convocazione. Potrei andare un attimino con due parole fuori dal discorso sport? dipende dove vuole andare. No, sta nessuna parte. Volevo fare, siccome io vi ascolto dal mattino quando aprite fino alla notte, sempre, ormai è diventato una malattia per me Radio 24, vorrei fare, se fosse possibile, le condoglianze a un vostro collega. Certo, Alessandro Milan, e a questo, ci uniamo tutti. Ringrazio per avermelo. No, io ringrazio lei, a questo ci uniamo tutti con, almeno per quanto riguarda con il silenzio, perché di fronte a certe cose c'è solo il silenzio, secondo me, dal mio punto di vista. Però lei ha fatto bene. Allora, prima di un caro amico, di un gradito ospite, vi faccio sentire la top 3 delle dichiarazioni più divertenti di ieri, della giornata di campionato, a partire da Sarri e quello che è mancato al Napoli nel periodo precedente a queste tre vittorie. Un pizzico di scuro, perché cioè, dopo abbiamo perso Higuaín d'estate, abbiamo perso Milik dopo un mese, doveva essere il sostituto di Gonzalo, e in quel mese il ragazzo aveva fatto 7 reti. Abbiamo perso Albiol in un momento in cui avevamo fuori Kirishes e Maximovic non ancora pienamente addentro i nostri meccanismi difensivi. Poi c'è un battibecco televisivo tra Juric e Ferri. Io sono sorpreso da parole di una persona che conosce il calcio così. Cioè, ti posso anche dire che hai sbagliato completamente tutto, perché Lazovic è stato nettamente meglio di Nagatomo, Laxalt è stato nettamente meglio di Candreva, queste erano le fasce. Abbiamo creato tantissime occasioni su Lazovic là, poi se tu vedi così, per me capisci poco, molto semplice. Se fai un altro tipo di analisi, l'accetto. Ma se tu dici cosa così, dopo prestazione di Lazovic e di Laxalt, a me mi sembra di sognare, con tutta sincerità. Mi viene in mente quel Balotelli, tu capisci un cazzo di calcio, e disse un giorno a Marocchi. Allora, per finire, i 100 gol che celebriamo di Pellissier. I gol sono tutti belli, indubbiamente il primo, magari a tripletta con la Juve, ma questo, ma tanti. Quando riesci a buttare la palla dentro è sempre bello. Grande Pellissier, monumento per il Chievo, ma non soltanto. Marco Crespi, buongiorno, che piacere. Ciao Marco. Ciao Carlo. Ciao, si parla di Milano che perde anche in campionato. Allora, via Gentile, forse qualcosa si è sgretolato o si sta sgretolando, ma non per il giocatore in sé, per le dinamiche che si sono innescate in questa squadra, non trovi? L'addio a Gentile è un addio arrivato con mesi di ritardo, perché le dichiarazioni sul campo dopo aver vinto lo scorso scudetto, il fatto di averlo degradato dal ruolo di capitano, significava che era impossibile la coesistenza, e quando trascini le cose per qualche mese, poi alla fine, anche quando prendi la decisione, è tardiva e hai fatto magari danni attorno. Sì, hai fatto danni attorno, cui Repesa deve a questo punto riparare, perché io ricordo anche quando Gentile ancora c'era quel cicchetto pubblico che mi sembrò anche eccessivo nei confronti dei suoi giocatori. Repesa nella partita di ieri a Venezia, dopo 3 minuti e 30 secondi, aveva chiesto 2 minuti di sospensione. Sì, sì. Significa che qualcosa non sta funzionando, e questo è un dato oggettivo. Io penso che la scelta di Milano era fare una rotazione ampia, si parlava della rosa a 15 giocatori, quindi 12 giocatori che possono ruotare. In questo momento mancano i capi giocatori, manca, e poi da parte di tutti, un senso di responsabilità. Sì, sui capi giocatori concordo, ed è un vizio ormai antico di Milano, è un vizio ormai quasi storico di Milano, quello di non avere il leader in campo, il go-to guy, il giocatore da cui andare o che si prende la squadra in mano nei momenti difficili. Dietro a Milano chi ti sta piacendo? Cosa ti sta piacendo di questo campionato? Penso che siano tre le squadre che hanno qualcosa in più, e sono Venezia, che merita il primo posto perché ieri è stata la prima a battere Milano, Avellino e Reggio Emilia. Ma sono quelle che hanno più una loro identità, anche se diverse tra loro, ma sono anche ancora lontane anche dalla Milano di oggi. sono molto lontane anche dalla Milano di oggi. Reggio Emilia, io ho un debole per questa squadra, ma non perché la solita storia degli italiani eccetera eccetera eccetera, io ho un debole per questa squadra per come gioca, e non dimentichiamo che è arrivata ad un passo dallo scudetto, Marco. Sì, due volte di fila, e quindi sicuramente a Reggio Emilia hanno la visione di un programma. Io credo, per quello che sta facendo come continuità tecnica negli ultimi 45 giorni, Venezia gioca in modo semplice, ha scelto giocatori stranieri, americani, che possono essere in crescita, e non va dimenticato che Venezia sta giocando adesso con un apporto limitato da Tonut, che ha un problema alla schiena che lo limita molto, quindi anche Venezia ha fatto vedere di aver fatto delle scelte intelligenti. Grazie Marco, grazie mille, a presto. Grazie a te, abbraccio. Ciao. Ciao Marco Crespi. Allora, ci fermiamo qui con tutti i convocati di oggi, ma torniamo domani dopo l'Europa, quindi verso le 2.05, 2.06, un'ora del genere. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzone in redazione, ciao a tutti.